Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Michael Cunningham, scrittore americano, premio Pulitzer nel 99 con Le ore, altri romanzi che ha scritto, Una casa alla fine del mondo, Carne e sangue, Al limite della notte, ora è in libreria con La regina delle nevi, pubblicato da Bompiani con la traduzione di Andrea Silvestri. Ogni volta che si legge un libro di Cunningham, secondo me si compie un'avventura emotiva, molto profonda e coinvolgente, perché al di là della trama sono interessanti le riflessioni dei singoli personaggi. Allora Michael, partiamo, in realtà sono tre i protagonisti, non possiamo parlare di un vero e proprio protagonista. Partiamo però dai due fratelli, Barrett e Tyler. Chi sono? They are Barrett and Tyler, who are not twins, but they might as well be twins. They are. Sono Barrett e Tyler. Non sono gemelli, ma potrebbero esserlo. Sono come un'unica persona divisa in due corpi. E di cosa hanno bisogno noi non lo capiamo all'inizio del romanzo. Sono sicuro che molte persone comprendono che è possibile essere troppo vicini alla propria famiglia. I'm sure many people understand that it's possible to be too close to your family. C'è un momento in cui si ricorda il passato, una scena in cui la madre dice sostanzialmente a Barrett: fra un po' di anni dovrai prenderti cura di tuo fratello, dovrai aiutarlo. La madre aveva già capito tutto, insomma, di come si sarebbero svolte le cose. What their mother did before she died was tell each of them separately. Quello che la madre ha fatto prima di morire è parlare a ciascuno di loro separatamente, prima con Barrett e poi con Tyler, per dirgli di prendersi cura ognuno dell'altro. Non è una strega, non fa una maledizione, prova solo ad essere una brava madre. E così dice ad ognuno di loro di occuparsi dell'altro, come se rimanesse orfano. Is a sort of orphan left for him. I due fratelli vivono insieme nella stessa casa a New York, in una zona, ecco, poco chic, diciamo, più povera della città. E insieme a loro vive Beth, la compagna di Tyler, che è malata di cancro. Che relazione si instaura fra i tre? Barrett ama profondamente suo fratello, ma in qualche modo, nonostante lui sia gay, sembra quasi amare anche Beth. Sì, sì, sì. Barrett is gay and he is in love with Beth and with Tyler. The three of them are all in love together and Barrett è gay, ma è innamorato di Beth, così come di Tyler. Tutti e tre sono innamorati gli uni degli altri. È importante per me rispettare la complessità dell'amore e della sessualità. Sì, certo, Barrett è gay, ma questo non vuol dire che non possa essere innamorato di Beth. E il fatto che sia gay non è la caratteristica importante di questo personaggio. Mi ricordo adesso uno dei tuoi altri romanzi, Al limite della notte, dove il protagonista maschile si innamora del fratello della moglie. Spesso non ci sono confini nei tuoi romanzi, nell'amore e nel sesso fra le persone. Come la pensi su questo punto? Like most writers, I write what I see. I write about the people I know. You use what the world shows you. Come molti scrittori, scrivo ciò che vedo. Scrivo delle persone che conosco. E quello che so è che l'amore e la sessualità possono essere complessi e a volte contraddittori. Noi siamo esseri complessi. Mettere una crocetta nella casella gay, etero o bisessuale non dà un'informazione veramente utile. Io credo che fra i compiti dello scrittore ci sia quello di sottolineare che la generalizzazione non può reggere, perché ognuno di noi è un mondo a sé. And I think part of what a novelist should do is insist that generalities don't stand up, that each one of us is a world unto him or herself. All'inizio del romanzo vediamo una New York nel mese di novembre con la neve. Barrett è stato lasciato dal suo fidanzato con un SMS e vede una luce che è stata tradotta almeno in italiano, una luce celeste che lui vede e che insomma inizia a fare una serie di supposizioni, pensa possa essere Dio, pensa possa essere un tumore al cervello e così via. Che cosa scatena in Barrett l'aver visto questa luce. Barrett is not religious. Barrett has no beliefs in the supernatural. Barrett non è religioso. Barrett non crede nel soprannaturale, ma un giorno vede una luce nel cielo e pensa che stia guardando proprio lui. Ma a differenza degli angeli della religione cattolica, questa luce non dà consigli, nessun suggerimento. Semplicemente appare e scompare. E allora Barrett deve cercare di capire perché vede questa luce, cosa vuole dire, perché è apparsa e, se anche l'ha immaginata, perché è successo quella notte. Why the light showed itself to him? Did he imagine it? But even if he imagined it, why did it happen that night? Che rapporto ha Michael Cunningham con la spiritualità? I was raised Catholic and I'm no longer Catholic. Sono stato cresciuto da cattolico, ma non sono più cattolico. Ho delle convinzioni spirituali, anche se nulla di organizzato, nulla di ufficiale. Quando la religione ti viene impartita da piccolo, con l'incenso che si sparge in questa casa di periferia, rimane nella tua vita. Hai semi di culto che sono stati piantati presto nella vita e che difficilmente verranno sradicati. Of worship planted early that don't seem to entirely have been uprooted. C'è un altro tema che affronti nel romanzo, quello della dipendenza dalla droga, perché Tyler è un cocainomane, ma la cocaina per Tyler non è un modo per essere più performante. Il mondo che tu descrivi non è un mondo, una New York rampante di gente che vuole arrivare al successo. Che cosa trova Tyler nella cocaina? Tyler may not be looking to be a rock star who plays in stadiums. Tyler non assume coca perché è una rockstar e deve andare a suonare in uno stadio. Però vuole scrivere una grande canzone e sembra non riuscirci. Quindi, con la droga, spera di potersi aprire a qualcosa di più grande, perché da solo non ce la fa. Ora non sto qui difendendo l'uso delle droghe, però c'è sempre e soltanto una storia che viene raccontata sulla droga. È negativa, chi la prende è cattivo, stupido, debole, cerca di sfuggire la realtà e se non smette finirà morto da qualche parte. Però secondo me c'è più di una storia sulla droga. Come prima dicevo che il romanziere guarda l'aspetto complesso della sessualità, così dico che deve rendere complesso qualsiasi aspetto della vita. E quindi ognuno assume droga per ragioni diverse, ognuno ha un proprio rapporto con la droga. Credetemi, non sto sostenendo l'uso della droga. Non mi auguro che chiunque legga questo libro inizi a pensare che assumere cocaina sia una grande idea, perché così si aprono a una percezione più raffinata, come succede a Tyler. Mi interessavano le motivazioni, approfondire questo argomento. Certo, ci sono storie terribili su persone depresse e tristi che assumono droga, ma c'è anche Jean Cocteau o Carlos Castaneda, persone che sono interessate ad espandere la propria consapevolezza. Jean Cocteau and Carlos Castaneda and people who have been interested in actually expanding their consciousness. Da quando ho letto Le Ore, mi ricordo spesso quella scena in cui una delle protagoniste femminili prepara una torta, un dolce, lo fa diverse volte, e faccio sempre questo giochino. Cerco nei tuoi romanzi i momenti dove compare una torta, perché compare quasi sempre. E infatti a un certo punto, quasi all'inizio, dici che Beth, come caratteristica, è quella di sfornare le torte. Cosa rappresentano per te le torte? When the cakes are being cooked. You know, the cake that Laura Brown makes in The Hours is her art. It's her form of self-expression. Il dolce che Laura Brown realizza in Le Ore è l'espressione della sua arte. È una sua forma di espressione. È il desiderio di produrre qualcosa di perfetto. Quando ho scritto Le Ore, mi sono detto, ok, Virginia Woolf prova a scrivere un grande libro, e allora Laura Brown, casalinga degli anni 50, cerca di preparare una torta favolosa. Molti pensano che sia più importante un grande libro di una torta, ma se si esclude il risultato, questo desiderio di trascendere se stessi, di realizzare qualcosa di bello. È determinato dallo stesso impulso. Per questo il dolce perfetto di Laura Brown merita la stessa attenzione del grande libro di Virginia Woolf. Credo che in questo romanzo, La regina delle nevi, la canzone che Tyler vuole scrivere sia la torta. È lo sforzo di produrre qualcosa di meglio di quanto l'essere umano riesca effettivamente a realizzare. Than human beings can actually produce. Sveliamo un segreto agli ascoltatori. Circa un anno fa con Michael Cunningham, in un contesto completamente diverso da questo, insomma, ci siamo inventati un giochino apparentemente stupido. Abbiamo iniziato a chiederci di che colore è la tua anima. All'epoca mi avevi risposto blu. È ancora blu la tua anima e perché blu? È ancora blu, ma un po' meno brillante di un anno fa. Hai citato prima Virginia Woolf, sappiamo che per te è stata, insomma, forse la scrittrice con la quale hai iniziato ad amare i libri. Ma dopo di lei ti sei innamorato di qualche altra scrittrice o di qualche scrittore? Hai provato lo stesso, proprio empatia profonda nei confronti di qualche altro autore? Oh, I have fallen in love with hundreds of writers since I first read Virginia Woolf. But I think mi sono innamorato di centinaia di scrittori dopo aver letto Virginia Woolf, ma credo che molti di noi che amano i libri pensano che il primo libro è come il primo bacio. Hai baciato persone dopo, almeno lo spero. You kiss other people, I hope. Il primo bacio non sarà il migliore, ma è stato il primo. Ti resta in mente in un modo diverso da tutti gli altri. Quindi ti potrei citare facilmente centinaia di libri di cui mi sono innamorato, ma Virginia Woolf e Mrs. Dalloway rimarranno sempre le prime. Although I could name easily 100 books I'm in love with, Virginia Woolf and Mrs. Dalloway will always be the first. Grazie a Michael Cunningham, ora in libreria con La regina delle nevi, pubblicato da Bompiani. Un romanzo, come gli altri di Cunningham, nel quale secondo me bisogna immergersi totalmente, insomma, perché è un'esperienza veramente dell'anima. Ormai ci siamo, insomma, siamo arrivati ai primi di settembre all'appuntamento clou per gli appassionati di libri, insomma il Festival Letteratura di Mantova, che è il festival letterario più antico in Italia, insomma quello che è nato prima. A proposito, Marzia Corraini, che fa parte del comitato organizzatore, che anno siamo per Mantova? È un anno importante, sono 18 anni, siamo diventati maggiorenni. Ah, caspita, e quando si diventa maggiorenni cambia qualcosa nella filosofia e nell'organizzazione del festival? Cambiano delle cose, sono cambiate in questi anni, certamente quest'anno uno dei titoli delle nostre pagine è 18, siamo solo all'inizio. Ecco, questa è la filosofia del festival. Quindi insomma si ricomincia da zero, si ricomincia come se si fosse appena nati. Vogliamo avere, come abbiamo sempre avuto, questo atteggiamento di assoluta semplicità, vogliamo stupirci ancora, meravigliarci ancora e quindi cominciare con cose nuove. Infatti io invito a guardare il sito del festival www.festivalletteratura.it. Vedrete che una gran parte dei nomi, ma veramente una percentuale molto alta di nomi, sono nomi che forse non sono così noti al grande pubblico. Sono frutto di ricerche e inviti fatti attraverso segnalazione di una rete straordinaria che il festival, questo sì, in 18 anni ha costruito. Proprio però andiamo a cercare quelli che non ben conosciamo, nemmeno noi, cioè ci fidiamo ovviamente delle belle segnalazioni che ci arrivano, addirittura molto spesso anche dagli stessi autori che sono già stati al festival. Infatti una delle cose belle del Festival di Mantova, lo ripetiamo spesso a Radio 24, è che c'è la possibilità di conoscere autori nuovi, oltre insomma ai grandi nomi che ci sono e ci saranno anche quest'anno, ricordiamo chiuderà Michael Cunningham, scrittore americano, e appunto l'occasione di conoscere nuovi scrittori. A Mantova non c'è un tema. In base a che cosa scegliete quindi questi autori da far conoscere al pubblico italiano? C'è una rete efficiente che si è costruita negli anni, dicevo prima, segnalazione di scrittori, ma anche di amici del mondo dell'editoria nei ruoli più vari. ma soprattutto soci nostri dell'associazione del festival e gli straordinari volontari che nel tempo cambiano, sono diventati grandi lettori, sono diventati anche bei personaggi in giro per il mondo e ci segnalano spesso cose. Ovvio che poi alla fine il comitato, che non ha un direttore artistico come ben sapete, oltre a non avere un tema, il festival ha questa altra caratteristica, praticamente costruisce un programma che deve avere un suo equilibrio, ormai negli anni lo abbiamo un po' sperimentato, quindi non so, un certo tipo di, quest'anno non so, c'era letteratura araba, palestinese, andiamo a cercare un anno altre letterature, altri paesi o altri argomenti, ma sono, come dire, non tutto il festival, ma una parte del festival. A seconda di quello che nelle varie segnalazioni viene appunto preso e quindi cerchiamo di stare attenti, per esempio, che non sia troppo tutto sulla letteratura anglosassone e quindi andiamo a cercare altre cose. Chi è stato il festival conosce questo, ci piace avere qui addirittura autori non tradotti, molto spesso poi attraverso il festival vengono in qualche modo conosciuti e hanno delle opportunità. Beh, ricordo quando Herta Müller vinse il Nobel per la letteratura, era stata ospitata solo da Mantova, credo, dal festival. Solo da Mantova, le posso aggiungere, non avevo uno sponsor. Quindi nessuno l'aveva scelta, come diciamo, e soprattutto quando poi vinse il Nobel ci cercarono, perché le uniche immagini sue, ma anche lei aveva scritto un testo per noi e anche i racconti che la nostra redazione, la redazione del festival aveva fatto, erano gli unici che c'erano in giro di Herta Müller. Una delle caratteristiche del Festival Letteratura di Mantova, lo ricordiamo, dal 3 al 7 settembre, è quello che è coinvolta un po' tutta la città, ci sono i ragazzi che fanno i volontari, insomma per questi giorni si vive, si respira narrativa, letteratura proprio per le strade, si incontrano gli scrittori, ci si siede al bar con loro magari a prendere un caffè. Un'altra cosa originale, per esempio, del Festival di Mantova è l'occasione che date proprio ai volontari e ai ragazzi di intervistare scrittori famosi. Quest'anno, se non erro, ci sarà anche Stefano Benni, che sarà sottoposto al fuoco incrociato delle domande dei ragazzi. Assolutamente sì, con Blue Rendezvous ormai sono diversi anni che un gruppo di volontari conduce seguitissimi incontri del festival, che sono sempre seguitissimi, l'hanno sempre fatto, ma addirittura si preparano a farlo con un altro scrittore, con persone che nel festival hanno già fatto questa esperienza, vengono da un po' tutta Italia, si radunano per qualche giorno, studiano, leggono, vedono chi saranno le persone che devono intervistare, fanno delle proposte, si organizzano una sorta di incontro ideale e poi questo viene fatto. Al Festival Letteratura di Mantova ci sono quest'anno più di 200 eventi, quindi incontri con gli scrittori, riflessioni e cose varie, spettacoli anche. So che le faccio una domanda difficilissima, come per un genitore chiedere quale figlio preferisci, insomma, però se dovessimo citare tre autori, diciamo, molto popolari che la gente conosce e tre incontri invece un po' meno conosciuti, che cosa citerebbe? Citarne 6 su 200 è davvero... Lo so, faccio una domanda difficile, però rimando, giusto per dare un'idea. Io rimando sempre al sito, forse non gliene dico 6, sicuramente la chiusura con Cunningham può essere interessante, quindi... E fra invece i nomi sconosciuti c'è qualcuno che la incuriosisce? Poco, mi dicono tutti straordinariamente bene della Bulawayo e andrò a vedere anche quell'incontro. Ma ci sono tantissime cose da andare a vedere. È molto divertente per noi andare a vedere, quando fanno le prenotazioni, come la stessa persona gira nel festival. E devo dire che si hanno sempre delle sorprese, perché uno direbbe, questo ha scelto questa persona, quindi prenderà tutti incontri di questo tipo. E invece ci sono delle cose incredibili. Noi abbiamo già visto le prenotazioni e così via, anche incontri con temi tipo la morte, cioè molto complessi, sono stati assolutamente pregnati. Poi ovviamente ci sono gli amici del festival, Lucarelli, Gambarotta, Beni, eccetera, cioè quelli che ci sono sempre, che sono sicuramente belli da andare a vedere, però quello che ripeto, chi viene al festival lo fa già, ma lo invito a seguire anche i molti che non conosce. E ricordiamo che appunto per partecipare alla maggior parte degli incontri del Festival Letteratura di Mantova dal 3 al 7 settembre bisogna pagare un piccolo biglietto. biglietto e in alcuni casi è necessario appunto prenotare questo anche per avere un pubblico veramente attento, interessato all'incontro. È stato fin dall'inizio uno dei motivi, la motivazione che la gente deve avere per andare a vedere poi quell'incontro, ma anche perché, come sapete, noi facciamo questi incontri spessissimo in luoghi storici che non possono portare più di un certo persone, quindi bisogna in qualche maniera razionalizzare anche questo. Ricordiamo allora il sito per trovare tutto il programma, festivalletteratura.it. Grazie a Marzia Corraini del comitato organizzatore, e naturalmente l'appuntamento è per il 3 settembre a Mantova. Vi aspettiamo. E allora, giustamente Marzia Corraini non ha voluto fare nomi più di tanto, insomma, io invece me lo posso permettere. Ve ne segnalo alcuni, così. Per chi ama la narrativa, diciamo, comica, ironica, c'è un bel incontro con due scrittori italiani, Gaetano Cappelli e Pier Sandro Pallavicini. Tra l'altro di Pallavicini trovate l'intervista sul suo ultimo romanzo, Una commedia italiana, su radio24.it. Poi c'è uno scrittore argentino che ora vive in Spagna, che secondo me è veramente di grande livello, si chiama Andrés Neumann e sarà presente anche lui al Festival Letteratura di Mantova. Ancora pulciando così fra il programma, proprio potete sentire le pagine che sto sfogliando, c'è un incontro anche con GP, ormai per come dire il punto di riferimento della graphic novel italiana, e poi una serie di incontri per esempio sul giallo con Elisabetta Bucciarelli, Davide Longo, Sandrone Dazieri, Carlo Lucarelli. Ancora per tornare, diciamo, alla narrativa che ci fa sorridere, c'è un incontro che secondo me potrebbe essere divertente con Diego De Silva e Francesco Piccolo. E poi c'è spazio anche per gli autori esordienti, gli autori di piccole case editrici, come per esempio Donatella Di Pietrantonio ed Elisa Ruotolo. Elisa Ruotolo è stata nominata spesso negli ultimi mesi perché è stata la prima, diciamo, degli esclusi della cinquina dello Strega, però aveva ricevuto parecchi voti con il suo romanzo Ovunque proteggici. E poi ancora incontro con Francesco De Gregori, con Alberto Arbasino, i suoi ritratti italiani, insomma, che sono stati adesso ripubblicati da Adelphi, sono una pietra miliare, insomma, della nostra letteratura. Per chi ama le serie televisive, vi segnalo anche che ci sarà l'autore di Downton Abbey, che appunto ha avuto un grande successo soprattutto in Gran Bretagna, ma insomma anche da noi. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti al Festival Letteratura di Mantova, lo ricordiamo, dal 3 al 7 settembre. E prima di chiudere voglio parlarvi di un libro, non è un romanzo, è un libro di ricette, sì. Anch'io casco nella moda dei libri di ricette, però ce ne sono alcuni che mi sono più simpatici di altri, insomma. Devo dire che ne acquisto parecchi, poi insomma metterli in pratica un po' meno. Però questo libro si intitola In Food We Trust. L'hanno scritto due giovani ragazzi, Stefano e Riccardo, che si sono inventati la Gnam Box, il progetto Gnam Box. Per conoscere tutto su questo progetto, insomma, dovete andare sul loro sito internet, però hanno anche una, diciamo, caratteristica, cioè quella di raccogliere delle ricette invitando a casa delle persone, magari anche sconosciute, mettendo a disposizione la propria cucina e cucinando e poi mangiando insieme. E allora sentiamo Stefano e Riccardo, autori di In Food We Trust, pubblicato da Mondadori Electa. Allora, in realtà gli inviti a casa nostra funziona che noi decidiamo chi invitare, perché è proprio un invito a casa. E quindi selezioniamo delle persone per noi interessanti e gli chiediamo se vogliono venire nella nostra cucina a presentarsi attraverso una loro ricetta. Quindi poi loro sono liberissime di portare chi vogliono, arrivano con gli ingredienti, decidono loro cosa cucinare, cucinano, noi facciamo le foto che poi pubblichiamo sul sito e poi mangiamo tutti insieme. Ah, quindi la gente, insomma, gli altri cucinano, portano da mangiare e voi gli fate pubblicità sul vostro sito? Sì, diciamo che inizialmente è proprio nato per il desiderio di incontrare delle persone nuove e secondo noi interessanti, e abbiamo poi pensato di farlo nel modo più semplice possibile, che era quindi attorno ad un tavolo. E il cibo è una cosa che accomuna tutti, per cui quale cosa migliore se non attraverso delle ricette che alla fine si trovano appunto tutte sul nostro sito, raccontare persone secondo noi interessanti. Adesso faccio un esempio, insomma, alto. C'era un signore che si chiamava Pellegrino Artusi che si faceva mandare le ricette dalle casalinghe attraverso le lettere. È stato, come dire, un precursore, anche perché prendeva spunto da, come dire, da tutte le massaie d'Italia per inventarsi ricette nuove. A questo punto voi avete pubblicato questo libro che si intitola In Food We Trust, ricette di stagione, pubblicato da Mondadori, Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari. Gnam Box, adesso spieghiamo perché questo Gnam Box. Qual è la filosofia di questo libro? Cosa c'è di diverso rispetto a tanti libri di ricette che ormai, insomma, ci stanno invadendo le case e non solo? Allora, beh, la nostra parola d'ordine è la semplicità, quindi quello che ci piace è cucinare le ricette del nostro quotidiano, quindi quelli che sono i nostri pranzi, le nostre cene, e quindi vabbè, la cosa fondamentale anche per noi è seguire la stagionalità, perché in base a quello che troviamo al mercato, al supermercato, noi cuciniamo quello. E in realtà quello che ci piace molto e quello che piace molto alla gente delle nostre ricette, che sono ricette che tutti riescono a cucinare, anche proprio le persone che magari in cucina non hanno neanche delle basi, e con ingredienti che comunque sono sempre facilissimi da trovare. Poi quello che noi facciamo è magari darti quel consiglio in più o magari quella tecnica particolare che riesce a trasformare magari anche un piatto semplicissimo in qualcosa che magari a cui tu magari non avresti mai pensato prima. E poi diciamo che sono anche divisi un po' per alimenti, cioè oggi ho le cipolle, vediamo cosa posso cucinare con le cipolle, oggi ho un sacco di ceci oppure voglia di ceci, vediamo cosa posso fare. Come fanno a rintracciarvi anche sul web i nostri ascoltatori? Diamo un po' di coordinate. Allora, di sicuro sul nostro sito, che è www.gnambox.com, e sui social network, sempre cercando Gnambox, su Facebook, Instagram e Twitter, e poi utilizzando l'hashtag In Food We Trust, che è anche il titolo del libro. E come faccio io a farmi invitare a cena a casa vostra? In realtà dobbiamo selezionarti noi. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Mi trovate su Twitter come Ale Teddina e poi c'è naturalmente il Facebook della trasmissione Il Cacciatore di Libri /Radio24. Grazie per l'ascolto e una buona lettura da Alessandra Tedesco.